I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Deborah Rosciani. A dispetto del caso Volkswagen, che ha ancora messo sotto pressione il settore auto in tutto il mondo, le borse internazionali hanno vissuto una settimana più serena rispetto alle ultime. Tra l'altro si è concluso anche il trimestre finanziario estivo ed è stata l'occasione per fare un bilancio rotondo sull'andamento dei mercati dall'inizio dell'anno. Piazza Affari è positiva per il 12%, mentre hanno un saldo negativo tutte le altre piazze europee. Venerdì è stato diffuso il dato sulla disoccupazione americana di settembre. È un test molto importante per valutare lo stato di salute dell'economia a stelle e strisce, ma anche per fare una valutazione sulle politiche monetarie necessarie all'economia. Ebbene, in settembre sono stati creati negli Stati Uniti, anzi il mercato del lavoro possiamo dire che proprio ha frenato, sono stati creati 142.000 nuovi impieghi, molti meno dei 200.000 attesi, sono stati ridimensionati anche i progressi che erano stati fatti nei due mesi precedenti. Il tasso di disoccupazione è rimasto comunque invariato al 5,1%. Per quello che riguarda Piazza Affari, i temi caldi riguardano intanto il comparto bancario. In settimana è ripresa a circolare l'indiscrezione secondo cui una grande banca d'affari avrebbe allo studio la fattibilità di un'integrazione fra i colossi bancari italiani, Intesa San Paolo, Unicredit e Monte dei Paschi. Circostanza che è stata seccamente smentita da tutti gli interessati al rumor, perché un'integrazione di questa portata appare a molti analisti e commentatori una concentrazione di rischi che non ha senso per il sistema Italia. Una buona settimana per Fiat, dopo i buoni dati sulle immatricolazioni in Italia, poi ricordiamo che il gruppo ha accelerato sull'iter di quotazione della Ferrari, pronta a sbarcare a Wall Street il 12 ottobre. I temi da tenere sotto osservazione questa settimana, intanto le piazze cinesi sono ancora chiuse fino al 7 ottobre. Oggi l'Eurogruppo torna a fare una valutazione sulla situazione greca, domani decide sui tassi la Banca Centrale del Giappone, mentre il Fondo Monetario Internazionale aggiorna le stime di crescita globali. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Salvatore Padula. Abbiamo spesso parlato dei danni provocati agli stati dalle grandi multinazionali che riescono a evitare di pagare le tasse laddove i loro utili vengono realizzati. Oggi è l'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, a calcolare in un documento che a livello mondiale ogni anno si perdono tra i 100 e i 240 miliardi di dollari di imposte sulle società, tutte tasse non pagate grazie all'utilizzo di pratiche elusive e pianificazione fiscale scorretta. Si tratta di un problema che produce effetti pesanti, un fenomeno che insieme all'Italia penalizza molti altri paesi, tanto che ora è proprio l'OCSE a muoversi, mettendo a punto una strategia globale per contrastare queste forme di illegalità. L'OCSE oggi ha presentato un suo piano d'azione che sarà discusso tra pochi giorni a Lima in occasione della riunione dei ministri delle finanze dei paesi del G20. Si tratta di un piano che si articola in una serie di 15 azioni, per 7 delle quali si era già trovato un accordo nel 2014, e ricordiamo che in quell'occasione un capitolo molto importante era dedicato all'economia digitale, visto che come sappiamo uno degli ambiti in cui le imprese multinazionali sono più disinvolte nell'aggirare le normative sul luogo di tassazione è proprio quello delle internet company. Ora arriveranno invece nuovi spunti che comprendono misure contro i trasferimenti finanziari fittizi o contro le filiali e i fantasma. È questa la strada giusta da seguire? Beh, la risposta ovviamente non è facile. Di certo solo un accordo a livello globale tra tutti i paesi può aprire la strada a una soluzione efficace della fuga delle tasse dai paesi. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.